Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Nella puntata precedente. Steve, provincia di Modena, vai, Steve. Coglionazzo, ma quando ti chiedono amicizia su Facebook me la puoi anche dare, ma chi ti si incula? Io non do l'amicizia a nessuno, imbecille, deficiente. Ascolta, mi l'altra volta è un bel inizio, ma no? Sei un cretino, un bella tanto. Il brano iniziale di oggi è offerto da Longoni. Andiamo pure. Oh, ritardato, adesso ti smerdo io perché è 3 giorni che sparli delle cazzate. Questo mi sembra un buon attacco quello di Steve, promette molto bene. Dimostra che tu sei un giornalista di serie. È un po' di tempo che non chiamava Steve, signor Steve da Modena. No, aspetta, stai dicendo delle cose importanti. Il coglione Steve da Modena. Perché lo tratti così? Un giornalista di serie B. Sì, ma perché serie B? Serie C? Facciamolo parlare. Allora ti spiego il motivo, così non parli più di questa faccenda qua. Allora, io sono anni che faccio corsi di autodifesa e la prima cosa che ti insegnano è disarmare una persona con una pistola. Quindi il carabiniere, se non sa fare il suo lavoro, è meglio che stia a casa, perché la prima cosa che ti insegnano è disarmare una persona. È disarmare una persona con la pistola. Vai avanti, che hai capito, coglionazzo? Vai avanti. Hai capito? Avanti, vai avanti. Io faccio questa disciplina qua con carabinieri, finanzieri, poliziotti. È la prima cosa che fanno, capito, coglionazzo? Rambo da Modena, Steve Rambo. Tirano via la pistola dalla tempia, Steve alla fine. In mezzo alla strada, al centro di Napoli. Al centro di Napoli. Oppure in palestra. In palestra tra quattro cazzoni. Bisognerebbe spararti su per il culo. A te bisognerebbe spararti. La prendo come una carezza questa cosa. Steve, ma sei un poveretto, sei. Poi vai avanti. Mi sembra molto preciso e bravo sto Steve. L'unica critica è questa, quella di attaccare il carabiniere. Un poveraccio sei praticamente. No, non è la critica, tu sei un paraculo. Che come succede qualcosa, io sto dalla parte. Esatto, dell'ordine, come Salvini. Appena succede Salvini, qualcosa, che me ne frega di Salvini a me. Io sto col carabiniere, io sto col poliziotto. Ma vai a cagare, vai, va là. Sei un paraculo unico, sei. Tu stai a parlare della pistola vera o la pistola finta. Ma un carabiniere deve saperla togliere, punto e basta. E poi non deve sparare, perché una volta che l'hai disarmato non c'è bisogno di sparare. Se non sai disarmare, non è il tuo mestiere. Sei un carabiniere fallito di serie B. Basta. Noi benediciamo gli ascoltatori della Zanzara, la redazione è fatta eccezione naturalmente per il merdarolo Parenzo. Morirete tutti, lutte merde. Barisoni gay. Croce Lenzo. Caro Parenzo, ti parlo sempre dal bunker del nord, dalla città di Milano, dalla regione Lombardia che è la più contagiata d'Italia. Per ora qui a Radio 24 tutto tranquillo, nonostante le tue profezie e i tuoi sinistri auguri. Mi fa piacere per lo stato di salute dei colleghi, dei tecnici, di tutta la struttura che rende possibile il governo del Sole 24 Ore e della sua ottima radio. L'unico mio motivo di dispiacere / rammarico è che questa trasmissione sia sempre, sempre, sempre in vigore. Sembri capace, sembri capanna, perché tu ti, come dire, sognavi il fatto che in, come dire, in presenza di un disastro colossale, almeno la questa, prima, certo, la prima, la prima cosa da fare è quella di, questa è una trasmissione che provoca nocumento al genere umano. E tu dici, tu sai, c'è cosa bisogno, vuol dire nocumento? Sì, certo, cosa vuol dire allora nocumento? Danneggia, esatto, cioè, danno, un danno, un nocumento, molto più bello, un nocumento, provoca una trasmissione che provoca oggettivamente un nocumento. Scusi, ma lei capa, che cosa farebbe in queste situazioni di grande emergenza? L'assalto alle fabbriche, che cosa farebbe in queste situazioni? Naturalmente questa è un'ottima occasione per dare il colpo finale allo Stato padrone, alla borghesia, naturalmente, sì, alla borghesia, al poteri forti, agli imprenditori che noi chiamiamo predatori, quelli che noi chiamiamo i predatori, però, naturalmente. Proprio. Dunque, negli anni 70 c'è un caso di scuola straordinario di occupazione mano militari di una fabbrica che era semideserta, abbandonata per il weekend dai padroni. Noi notte tempo la occupammo, la prendemmo. Ma non è che uno può approfittare del coronavirus in questo naturalmente caso. La situazione drammatica in cui versano molte imprese del nord potrebbe suggerire ai Katanga, a quel che rimane delle sentinelle democratiche di questo paese, l'occupazione mano militari delle aziende del nord attualmente in mano degli imprenditori. Questo potrebbe essere, cioè, naturalmente il coronavirus, lei dice, Capanna, sì, potrebbe dare finalmente non una tanto l'operaio, eccetera, il colpo di grazia, il colpo di grazia a questo capitalismo, a questo capitalismo ormai morente. Io lo dico ovviamente da ex deputato e da vitaliziato che gira l'Italia avanti e indietro senza pagare ovviamente i biglietti né dei treni né degli aerei né delle autostrade, perché come sapete in dotazione agli ex deputati rimangono quelli che voi chiamate privilegi, beh, in sì, realtà sono, io sono al servizio del cittadino, naturalmente, capito, quindi quando io gratuitamente, certo, quando naturalmente prendo un treno per raggiungere una località, lo faccio perché sono un ex parlamentare, quindi al servizio del cittadino. Ma non è vero, va per farsi i cazzi suoi. Naturalmente, ma nella funzione di ex, sì, sempre come sentinella, di rappresentante, come sentinella, sentinella del democratica, popolo. Sentinella democratica dalla parte del popolo, viaggio sempre naturalmente gratis. Is, gratis, benissimo. Allora, una delle frasi di oggi, grazie Capanna per questo collegamento, come sempre all'attacco, è quella della Meloni che dà del criminale a Conte, al signor Conte. La Meloni Conte questa, è un vero? Sì, non ho capito. Adesso per forza, adesso faccio una polemica seria, ma per forza ci vuole l'unità? Cioè tutti invocano, bisogna stare tutti insieme, ma chi cazzo l'ha detto? Se uno deve fare una critica, un minimo di senso di responsabilità, ecco, ma su che cosa lui, lo critica? Su che cosa perché lo critica? Dice, beh, sentiamo. Poi si è un po' rimangiata la cosa, ci ha un po' ripensato. Poi nel pomeriggio è tornata all'attacco, senti. Siamo diventati gli untori d'Europa, scusi, la CNN titolava: il presidente italiano ammette la falla nel sistema sanitario. Sei allora, un criminale a fare una cosa del genere. Conte la spiega. Sei un criminale? Beh, a fare una è criminale, è un atteggiamento criminale verso l'Italia, certo. Ma mi pare che abbia criticato una cosa, poi al di là della parola utilizzata, che criminale, basterebbe, no? Che la signora Meloni, che l'onorevole, pardon, sì, che l'onorevole sua Meloni, eccellenza potresti basterebbe dire, che sua eccellenza Giorgia Meloni basterebbe che lei frequentasse così, sua eccellenza, un po' di più la protezione civile e saprebbe i dati ufficiali che ho qui in mano e che puoi vedere, li dovrebbe avere anche lei. Ma che c'entra, scusa? Nella famosa mappa, no, per far capire dove nasce la questione della, no, CNN, la famosa mappa della cartina del contagio, se sua eccellenza Giorgia Meloni avesse frequentato la protezione, saprebbe, non sua eccellenza, perché è un titolo onorifico. Vabbè, perché? Allora sua eccellenza, che allora, c'è allora, in mano? Dimmi, sua eccellenza, dimmi. 95.748 in tutto il mondo sono le persone contagiate, adesso, ma cosa c'entra? 80.000 in Cina, ma 6.000 in South Korea, South Korea, allora, 3.000 in Italia. Ma cosa c'entra? 3.000, cosa 3.000 c'entra? Terzo paese al mondo. Ma sta dicendo un'altra cosa. Allora eccolo là, ragazzi, l'abbiamo perso. Fategli il tampone, ti prego, fategli il tampone. Ma questo è il coronavirus oppure il i tuoi funziona, bambini? O i tuoi non bambini? Abbiate paura. Non abbiate. Non abbiate paura. La roba è incredibile. Ecco, finito. Questo è malato. Non abbiamo. Allora, Conte risponde alla Meloni. I miei bambini. Conte risponde alla coronavirus. Affermazioni molto gravi. Rimango un po' sorpreso, dico la verità. Noi chiediamo ai cittadini comportamenti sobri. atteggiamenti responsabili. Bravissimo. Quindi la politica, in questo momento ci sono io come primo responsabile dell'azione di governo. Bravo. Però è chiaro che la politica ha bisogno che tutto il sistema Italia, tutti i cittadini, tutti i partecipi di questa comunità nazionale lavorino in una medesima direzione, altrimenti questa emergenza è difficile superarla. Bravissimo, responsabilità. Allora, ancora la Meloni. Dispiace che Conte e mezzo governo perdano tempo a sostenere che gli avrei dato del criminale e a fare polemiche, mentre non hanno trovato un minuto per rispondere alle proposte che ho inviato, eccetera, eccetera. Aspetta. Sa benissimo che ho corretto in diretta una frase che poteva essere mal interpretata, ribadendo che considero criminale aver pensato di utilizzare il coronavirus per una passerella personale, arrivando addirittura a dare al Servizio Sanitario Nazionale la colpa, come ha fatto, la colpa del contagio. Quello è un fatto. Posizione che conferma e ribadisco. Qualcuno ha sbagliato i protocolli. Criminale, infatti, fare passerella. Ma criminale i protocolli qualcuno li ha sbagliati o no? E che ne sappiamo noi? Che ne sa, lo sai e tu, che ne sa la Meloni? Che sei un tecnico, lo no, sai ma tu. La Meloni che lo dovrebbe sapere. Lo sai qualche tu. Qualche ospedale ha sbagliato il protocollo, tu. Sì o no? No, questa è la domanda. Senti l'altro. Allora, sotto accusa il direttore di Libero, Vittorio Feltri, per un titolo del suo giornale. Una vergogna. Non dire cazzate, una cosa vergognosa. È una persona che non si smentisce ma mai. Ma dai, il virus è la conquista del sud, qual era la cosa? Appartenere dai. Allo stesso ordine professionale dove c'è lui è imbarazzante. Ma dai, su, il virus è la conquista del è sud. È diventata ormai una persona imbarazzante da non portare in giro. Tu non puoi portare in giro Feltri. Infatti mi hanno detto che c'è un autista cinese che lo controlla minuto dopo minuto. Che ogni tanto lo porta, lo prende e lo porta via. C'ha un autista cinese. Veramente uno può andare sotto accusa. Ma lascia perdere l'autista. Sì. Uno può andare sotto accusa. Un autista cinese che lo controlla perché ha il badante. Ma uno può andare sotto accusa perché fa un titolo virus alla conquista del sud. Virus alla conquista del sud. Alla conquista. Ma è un fatto. È un fatto che è arrivato pure al sud. Uno lo declina come vuole, no? No, dice finalmente l'unità d'Italia. Ma sì, d'accordo. Ma chi se ne frega, no? Ma che è sta roba sotto accusa? È la classica persona imbarazzante. È la classica. Persona imbarazzante, ma non lo puoi più portare cose. In uno giro. Delle cose è una persona che non si può più portare in giro. Sai il classico quando vai a una festa? No? Dire, quando vai a una festa ti porti e dici: no, cazzo, hai parlato quello lì, finita la festa. Fermo. No, è possibile. Ciao, dimmi quanta fai a Modena? 100 euro. Ma fatta piangere la zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Godo come un riccio, godo. Godo come un riccio. Godo. Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qua. Eccoci. Quattro cioccoli puttani, coppo mondo che vanno fare il signore Rucazzi e passatano tutti quanti compare, faranno un cancello me, vanno manna per farsi il creatura a scuola. No, perdono il programma. No, tu sei tu che perdi qualche pesce, rimane il mattino qua fuori. Ma mi metti che fotocamera e dichiara tutto quanto, comincia a andare a coppa a cappella, fino a coppia e tutti i mondo agnelli, e dica tu perciò la manna a fila a scuola, chi la fai notte. Ecco qua. Ho la traduzione di questo messaggio che gira. Queste quattro meretrici del Monte di Procida che vogliono fare le gran signore e poi incontrano i loro amanti fuori dal mio cancello, vogliono a tutti i costi mandare i figli a scuola. No, perdono il programma. No, sei tu che forse ti perderai qualche pene opzionato per domattina. Qualche pene opzionato per domattina. Ora mi metto alla finestra con una fotocamera e le denuncio tutte, a cominciare da quelle della zona di Cappella fino a quelle di sopra il monte, e gli dico: ah, tu perciò dovevi mandare tuo figlio a scuola perché dovevi fare i chinotti. La senti la differenza tra la traduzione inutile, traduzione, in realtà sentire un accento che ti basta sentirlo e avere un'idea di quello che dice? I chinotti erano i bocchini, i pompini, capito? Dai, ecco su. Qua Vittorio Feltri, lo abbiamo enunciato, l'abbiamo evocato qualche istante fa. Avanti tutta, vai. Ecco, però oggi i bergamaschi, esco un attimo dal seminato, vengono considerati come tutti quelli del nord, gli untori. Addirittura in meridione c'è un cartello che dice non affittiamo ai settentrionali. In una settimana praticamente abbiamo ribaltato il mondo. Sì, ma in due giorni adesso si ribalta un'altra volta perché il virus è partito alla conquista del meridione. Ah sì, eh? Sì, purtroppo sta arrivando anche al sud. Sta arrivando. Anzi, è già arrivato. È già arrivato, non dobbiamo esserne felici. Credo. No, no, perché sembra quasi che uno dice tiè. Ecco appunto. Esatto. Ah sì, però scusami, esatto, l'ha spiegato, esatto. L'ha spiegato, era Raghembetti ieri sera, il direttorissimo l'ha spiegato, scusa. Ho detto una cosa evidente. Ma certo, certo, Penti. Sempre io, interrompete. Beh, tutte, ho capito, le volte, ma... ho detto una cosa normale, che per fortuna sta arrivando lì al sud, l'Italia è unita dal nord al sud, perché mi risulta dalle inchieste di Libero che il coronavirus all'inizio si era rifiutato di andare a Napoli perché c'era troppo casino. Io ho parlato direttamente col coronavirus, i nostri giornalisti lo hanno intervistato e il coronavirus inizialmente, questa è la notizia, inizialmente una settimana fa il coronavirus ha detto no, io a Napoli non vado perché mi fa schifo. E poi che è successo? Poi parlando abbiamo capito che fosse opportuno che andasse cosa, anche dai, a Napoli, e quindi si sta estendendo al sud. Ma le nostre fonti dei ma giornalisti di Libero Quotidiano hanno trovato le notizie. Ma non mi fai parlare, per Dio, ma vado via, non si può contestare nulla. Poi dà ragione a Zaia sui topi. Senti, ma Zaia aveva detto semplicemente la verità, non vedo perché si debba scusare. È noto che in Cina, non dappertutto, ma alcuni cinesi mangiano cose assurde che noi non vorremmo neanche, non dico vedere nel piatto, ma neanche gironzolare per casa. Alcuni cinesi, che cazzo? È vero. Sì. È vero, è così. Attenzione, pare che, grande rivelazione di ieri da Gabetti, pare che vada a tagliarsi le unghie il direttorissimo dai cinesi. Penso... È lì che ha no, questo torna perché è lì che ha conosciuto quello che è diventato poi il suo autista. Sì, può essere. Sì, è lì che no, no, davvero. Essere. Quello che interviene qua ogni tanto. Sì, sì, sì. Quel cinese lì. Sì. Sì. Però posso farle vedere una foto che dimostra che quello che dice è assolutamente vero. Guardate i telespettatori questa fotografia, prego della regia. Vediamo. Ah, questo? E dove vado io a farmi tagliare le unghie? Purtroppo è chiuso, non so per quale motivo, immagino per... Cinesi però questi, eh? Cinesi, io vado sempre dai cinesi a tagliarmi le unghie, ma non a mangiare. Questo è uno dei tanti. Sono bravissimi, oltretutto buon mercato, ti tagliano le unghie, ti fanno tutto in 10 minuti, io vado volentieri. Purtroppo adesso è chiuso e mi tocca tenere le unghie lunghe che mi fanno anche un po' impressione. Lei graffia anche. Mentre in un ristorante cinese non sono mai entrato. Io poi non ho capito, ma uno non se le può tagliare a casa le unghie, basta perciò che me le taglia, non mi posso neanche far tagliare le unghie dei piedi. Ma scusi, ma cinese disgraziato che è lì, che non fa niente tutto il giorno, e mi hanno detto che poi prendono le mie unghie e le mettono nell'involtino. Dove? Primavera. No, non mi fate parlare, abbiamo di buono. Ma chi l'ha detto? Comunque intanto Sgarbi continua la sua operazione antivirus. Ci siamo appestati da soli. Governo di incapaci hanno creato un virus che non c'è. È tutto sbagliato. Chiudere qualunque cosa. Occorre fare come l'America, occorre fare come l'Inghilterra, occorre fare come la Francia, che hanno fatto pochi tamponi e hanno preso l'influenza per influenza. L'abbiamo fatta diventare un male universale, per cui oggi, paradosso salviniano, la Nigeria ha chiuso i confini agli italiani. Gli italiani non possono più andare in Nigeria, che è una cosa straordinaria. Ci siamo appestati da soli. Purtroppo siamo governati da gente incapace, hanno scelto le misure apparentemente più rigorose per salvare i cittadini, hanno demonizzato Codogno, hanno demonizzato Piacenza, hanno inventato un male che non c'è. Davide dalla provincia di Pisa, Davide dalla provincia di Pisa, avanti tutta, dai. Sì, buonasera. Dimmi. Grazie a voi per questa trasmissione. Vai. Volevo dire questo: io nel 2008, 12 anni fa, ho fatto la guardia giurata e sì, a quell'epoca avevo due pistole. Mi sembra che lei voglia tornare su Napoli, no? Mi sembra di capire. Napoli, no, fatto sulla, di Napoli. Sull'appunto l'avere. Capire un pochino come sono fatte queste armi: una pistola vera e una pistola che è una riproduzione. una pistola che è una riproduzione non è una pistola giocattolo, è una pistola uguale, identica, spiccicata alla pistola vera. Sì, ma Davide, l'abbiamo dimostrato chiaramente ieri, l'ho portata qui, una replica, una imitazione, una copia di quella vera, le fanno uguali, identiche per il soft air, che è uno sport dove si spara a pallini, e che uno può andare tranquillamente a comprarsi una di queste pistole giocattolo, chiamiamole così perché effettivamente si chiamano così, e in un negozio... Non si parla solo di queste pistole giocattolo, io sto parlando di una scacciacani che non contiene pallini da soft air, ma contiene bossoli senza un'ogiva con tanto di carica di polvere. Sì, no, ma Davide, non c'è dubbio. Cioè, ma sì, ma io voglio dire semplicemente una cosa. È che il povero carabiniere, perché anche lui ovviamente è una vittima di questa situazione, non poteva nemmeno lontanamente riconoscere la differenza tra un'arma che è magari... impossibile. No. Ciao, impossibile. Angelo, provincia di Imperia, Angelo. Dimmi, sì, Angeletto, sì. Dimmi. Ci sono, mi senti bene? Vai. Ecco, allora, chi è sto Steve da Mantova? Steve da Modena. Con Mauro da Mantova. Allora prende, buonasera e vaffanculo a Parenzo. Così, giusto per iniziare. Buonasera a lei, grazie per aver chiamato. Lei è il primo degli imbecilli della serata, quindi ha una responsabilità enorme. Ultimo molto che devo parlare. No, esatto, sarà il primo degli imbecilli, esattamente. Dimmi, Angelo, serata è lunga. Dimmi. Prego, imbecille. Sì, che scadono i tempi. Sì. Quel deficiente ha telefonato, ha alzato il telefono per dire che lui dopo anni di allenamento riesce a disarmare. Sì, mio nonno è in carriola, allora, mio nonno. Il carabiniere ha 23 anni, quanti deve anni fare? Poi lo facciamo carabiniere a 40 quando non ci vede più. Dai, ma sono follie, sono follie. No, ma ha ragione Angelo, dai, fermi tutti, sì. Fermo lì. La Zanzara. In questa emergenza. Ma è una cosa di dire, ma che è una violenza della musica. Emergenza. Il grande Bini, un grande. Ma è la gente dietro che applaude finta. Ma chi che fa? Emergenza. Ma c'è un'emergenza di fermare questo qua. Ma che è un genio Bini? Non lo sa, ma è un genio, purtroppo. L'emergenza là è a Roma. Non dirlo ad alta voce che mi mettono in quarantena qua, sennò. Che cosa devo dire a lui per convincerlo ad andare con te? Perché lo fanno un bello bocchino. Sì, d'accordo, quello va bene. Vado le case, un bocchino che lui mai è ricevuto in vita sua. Sì. Fammi capire, Cruciani, tu dici che il carabiniere a Napoli non doveva portare il Rolex. Mi sa tanto di quella gente che dice quella ragazza che è stata stuprata non doveva mettersi la minigonna. Ma vaffanculo, va. Testa di cazzo. Non ho detto questo per l'ennesima volta. Adesso vi faccio risentire chi l'ha detto. Io gli ho dato ragione, ma non perché per attribuire la colpa al carabiniere. Stiamo parlando sempre del caso di Napoli. Ma semplicemente per dire che oggettivamente, consigliandolo anche, dice questo signore che fra poco vi faccio sentire, che è un ex criminale, chiamiamolo così, un pregiudicato che poi si è come dire, redento e adesso è addirittura il garante dei detenuti del comune di Napoli stesso, questo signore che si chiama Pietro Ioia sostiene che se uno conosce Napoli non giri con Rolex, te lo consiglia anche il comune, te lo consigliano gli alberghi, non giri con i Rolex. Dopodiché non c'entra nulla, uno ha tutto il diritto di farlo e non è un alibi, cioè non è una giustificazione per chi fa le rapine, né una cosa che può colpevolizzare chi si porta il Rolex, né dirò mai no, te la sei cercata, perché non lo dico. Anche se, ripeto, portarsi un Rolex e andare in giro per il Napoli, o si sentiva sicuro dal fatto di essere un poliziotto, un carabiniere con la pistola in tasca, non lo so, qualche rischio lo corri, oggettivamente. Poi non è che posso dire non andate. Io certamente non ho Rolex, se avessi Rolex a Napoli, a parte che non ci vado di mio, insomma, no. Comunque sentiamo Ioia, dai. Lo so, però io voglio dire una cosa, no? Noi sappiamo com'è la città di Napoli. Insomma, cammino con un Rolex in coppuraccio. Insomma, sai che più o meno puoi subire una rapina. Tu sei carabiniere, devi sapere queste cose. Cioè tu dici non si gira con Rolex sul braccio. A Napoli non ci cammini. E sentiamo l'altra voce, sempre da Napoli, qui ieri il padre del ragazzo ucciso, che ha detto, oltre a quello che sappiamo, cioè il fatto che il secondo colpo non andava sparato, che è stata un'esecuzione secondo lui, eccetera eccetera, poi ci siamo messi a litigare, prima abbiamo fatto pace, poi abbiamo litigato di nuovo, abbiamo dato il bigliacco, ma a parte questo ha detto una cosa abbastanza sorprendente, in realtà non troppo sorprendente, abbastanza, come dire, scontata. Infatti gli ho chiesto a un certo punto di cosa campi. Scusami, ma come campi tu oggi, per esempio? Come campi? Io, reddito di cittadinanza. Ma veramente prendi reddito di cittadinanza? Assolutamente. 780 euro? Ah. No, 890. 890. Perché non ci abbiamo niente, non ci abbiamo niente, niente. 890 euro, reddito di cittadinanza di un ex, di un pregiudicato, una persona che ha fatto, credo, delle rapine o comunque sicuramente ha un passato di criminalità. Il quale prende 890 euro di reddito di cittadinanza. Per carità, se per te è normale, ma certo che ne ha diritto, secondo la legge lo prende, non è che li ha rubati questa volta, no? Non mi sembra questo il tema di oggi. Il tema di oggi mi sembra l'importantissimo messaggio che il presidente Mattarella ha dato al paese. Vabbè, Andrea da Torino, sì, certo. Nessuna ansia, avere fiducia nell'Italia, supereremo insieme questo momento. E soprattutto, fai messaggi, giustamente, in questo caso fa un messaggio. Andrea dato anche all'opposizione che ha berciato. Ma che in queste c'entra? Ore, dai, ma uno deve essere per forza d'accordo con quello che fa il governo? È un momento deve essere in per forza cui d'accordo. Il paese ma che sta c'è attraversando che si un momento. Il dibattito pubblico, ma nessuno dai, dice, ma non fare ragazzate. Polemiche inutili ma come quelle di sua eccellenza, onorevole Giorgia Meloni. Ma chi è che ha di sua eccellenza qua, adesso? Non lo so, è un titolo onorifico, ma mi pare di aver detto. Cioè, non è un insulto, dici sua eccellenza. Non mi pare. No, perché mi pare ci sia un riferimento a sua eccellenza. No, voglio dire, ci fu un personaggio di qualche tempo fa che si attribuì lui da solo il titolo di sua eccellenza. No, non credo che sia attribuito da solo. Credo governò, che gli siano state date dei titoli onorifici. Ma chi? Che era un regime? Ma che cazzo dici che era un regime se l'ha autoattribuito? Prima il re magari gliela date. Che ne ma so. Quale re? Ma se le auto a te un regime? Come il colonnello. Colonnello Gheddafi, capo assoluto. A chi sì, è vero, che se l'è dato? E lui l'ha dato. Il califfo. Il califfo lì. Se lui non era manco un califfo. Il califfo. Ti ricordi il califfo? Se l'era auto attribuito. Dici che cazzo sei tu un califfo? Dice, sua eccellenza dice che se l'ha autodato se il dittatore. Se l'ha autodato, ma perché è un megalomane pazzo, ma era chiaro che era così. Megalomane, ma non lo sai, pazzo. Era un megalomane, ma non era un megalomane. Sì, certo, assolutamente. Non era un megalomane matto. Uno che stava lì su un balcone così con gli italiani! Ma vaffanculo, dai, vestito di nero col fez in mai becci. Era un megalomane pazzo, un esaltato megalomane pazzo. Che cazzo era? Andrea, non si può neanche dire questo adesso. Tu, cioè, politicamente corretto. No, ci puoi dire che non era un megalomane. Tu pazzo. Mi fai impazzire era un criminale, questa... no, un megalomane, criminale pazzo, mi fai che cazzo impazzire era? La cosa che tu ogni volta che si nomina Mussolini scacci, cioè a te la figura sì, ti sta proprio sui coglioni, impazzisci. Ma è una sciaguma, dovrebbe stare su. Ma adesso Andrea da Torino, dai, a sentiamo. Chiunque di buon senso allora, dovrebbe. Parenzo, dimmi, Parenzo, dimmi. Senti un po' qua. Secondo te che paese è? Un paese che chiude scuole, università, cinema così e lascia aperto i centri commerciali. Io oggi sono andato alle 16 a un centro commerciale di Torino. Sì. Era il mondo, non uno la con la mascherina. La fa la spesa, no? Sì, diciamo che la ratio di questa cosa è questa. Perché anche, me, tutto. Anche secondo me chiudi i luoghi che aspetta, non sono che non questo... chiudi i luoghi. Allora, se tu chiudi perché c'è pericolo il cinema, contagio. I teatri purtroppo. Sì, certo. Però Andrea, la ratio, se si può dire così, la ragione per cui sono chiusi i cinema, i teatri, gli stadi adesso e tutti i luoghi delle manifestazioni pubbliche di aggregazione è che oggettivamente sono cose fondamentali per la democrazia, però non sono cose, diciamo, che hanno a che fare con la sopravvivenza. Mangiare uno deve mangiare. Invece, al contrario, i centri commerciali, anche se è vero che è un po' paradossale la cosa. Ma è paradossale, scusami. Cioè, tu allora, vai nei centri commerciali che sono potenzialmente, ce n'è uno qua vicino a Milano. Ma è anche per dare un segnale al paese di muoversi di meno, ma è anche per dare un segnale al paese di muoversi di meno e di avere delle accortezze. E intanto migliaia di persone si riuniscono in un come dice Andrea, non si riuniscono in una, perché fanno delle assemblee. Mi spiegate una cosa, come mai, ecco, in Germania ci sono 500 contagi? Perché hanno fatto meno tamponi. Meno tamponi. 500 contagi e neanche un morto. Vabbè, ma adesso arriveranno, non ti preoccupare. Oppure sono morti per polmonite, ma non li attribuiscono al coronavirus. Esattamente. Bravo, è quello che dico io. E che, ma infatti sono dei gran, probabilmente sono dei gran paraculi. Dici quello che dico io, si alza uno, c'è quello che dico io. Ma dico io cosa? Sei un medico? No? E allora vaffanculo! Ma che c'è? È quello che dico io. Sorella, ma sta gente qua che telefono, dico, ma è quello che dico io. Ricordati, non sai un cazzo. Chiami solo alla radio e non sai un cazzo. È quello che dico io. Parlino i virologi. Tu vai solo a fare in culo. Vai a fare in culo. Rispetta le regole e non rompere il cazzo. Ma perché non può? Perché non può parlare? Ma perché non quelli che telefono? Non dicono, perché Renzo, io quello che dico quando c'era lui non c'era neanche l'influenza. Ma non dire, ti credo, li mandava tutti sui treni, certo, per forza, no, li mandava tutti sui treni a morire. Ti volevo dirti una cosa, io imperturbabile, Andrea, dimmi. Facevo questa battuta, guarda, io quello che dico io. Ma perché uno non può avere un'opinione? A te ti danno fastidio le opinioni. Libertà. Ti danno fastidio la libertà, ti dà fastidio. No, io sui vaccini non ho opinioni, leggo. Lascia, non stiamo parlando di vaccini. Ma cosa cavolo leggi che gli scienziati hanno detto tutto il contrario di tutto? Questo è oggettivo, però. Questo è così. Uno ha detto prima è poco più di influenza, l'altro ha detto che bisogna aprire. La mia opinione è che adesso gli scienziati gli va bene che c'è questa cosa, perché sono protagonisti, ecco, agli in scienziati. Italia qualcuno, non sono mai aspetta, qualcuno è malato di protagonismo, ecco questo diavolo, agli scienziati Gianluca da Perugia, tu dai voce e non dice che a uno che dice agli scienziati gli va bene. Ma se tu avessi Gianluca davanti uno così, cosa gli faresti? Però, uno dice, però, agli scienziati dirti, gli dirti, va bene. Io conosciamo talmente bene questo paese e tutti i suoi meandri eccetera che la mania di protagonismo qualche volta sconfina c'entra? Nella felicità di un evento tragico. Può sconfinare anche in questa roba. Non dico di qualcuno, io non lo so. Però ci può stare quello che dice Andrea. La felicità magari no per la morte, ma la felicità di essere al centro di un avvenimento, quella c'è. E Andrea non ha tutti i torti. Gianluca da Perugia, dai Gianluca. Pace, amore, ciao. Ciao, dimmi. Nulla, volevo nulla. Sottoporre una riflessione, sì. Anzi, per modo di dire, un sillogismo andreottiano. Addirittura, partiamo così. Esatto. Vai, pensa bene, pensa male, si fa male. La cosa, lo spunto me l'ha dato un video che c'è su YouTube che potete vedere tutti, che è la visita di Xi Jinping all'ospedale per acuti di coronavirus a Pechino. Sì. L'ha fatta 20 giorni fa. Dunque? E si è presentato il nostro metto in questo ospedale con una mascherina a tre veli che ormai abbiamo imparato a conoscerle. Sono delle mascherine che non Dunque? Danno nessun tipo di protezione. Dunque, mi ha ricordato, sai quei colossal degli anni 60 storici, dove c'era il legionario che andava in giro con Rolex, così almeno rimaniamo un altro. E dunque? E quindi appare una moina. Altra cosa, se andate cioè, ma cosa vuoi dire alla fine? Di questo adesso arrivo, sarò velocissimo. Se tu vai sul sito della John Hopkins, che è l'unico che fa monitoraggio dei casi cumulativi di contagio a livello mondiale, ti accorgi di una circostanza molto strana. Qual è? Nelle due province che sono a 250 e 300 chilometri dal focolaio, dove si sarebbe sviluppata questa pandemia, si sarebbe lo Jiangsu e lo Shandong. Lo Jiangsu e quello allora? Xining, che hanno una popolazione che è decisamente superiore a quella italiana. C'è un numero di casi registrati cumulativo da dicembre che è bassissimo. Vabbè, la conclusione qual è? La tua conclusione qual è? Allora, se tu sei una seconda potenza economica e finanziaria del mondo e ti girano un po' i coglioni perché magari ti hanno applicato dei dazi, il GDP non ti sta crescendo come vorresti. Dunque la Cina? Sì. Che fai? Cosa, e se vuoi dare un bel segnale, diciamo che così, fai? Ti auto inietti il virus? Non ho capito. No, quella è facile a muina. Cioè, quella è a muina. Cioè, spargi il virus poi in tutto il mondo? Sì, c'hai anche un bel veicolo. Cioè adesso siamo arrivati alla follia che sarebbe la Cina ad avere prodotto questo virus per infettare il mondo. Interessante. Fermi tutti, fermi tutti. La zanzara. Parliamo di cose sensate, per favore. Cruciani, parliamo di cose sensate, per favore. Sono momenti importanti per il paese. Parliamo di cose importanti, per favore. Sciopero dei taxi, fanculo, chiamo Uber. Quando segna Ramsey, sparisce uno youtuber. Ti tiro in mezzo un bangla che vuol vendermi una rosa. La noce è peligrosa, Milano, sushi e coca. La noce è peligrosa, sei una puppa peligrosa. La noce è peligrosa, sexy outfit tutto rosa. La noce è peligrosa, non sto in piedi ma sto in posa. La noce è peligrosa, storta sì ma favolosa. Andiamo pure. Adoro, adoro, adoro la zanzara. Adoro. Andiamo pure. Adoro. Che ne pensi di questa trasmissione? Io non ascolto mai la zanzara, non mi interessa assolutamente niente. E poi paga sempre pantalone. Ma e c'è Barisoni. Guarda, leggevo ora le disposizioni nuove del Ministero della Sanità, è un casino per davvero, no strette di mano, un metro di distanza, cioè, pensavo anche per trombare come si fa ora, ci vuole un metro di cazzo, chi ce l'ha? Questo è un genio assoluto. Pippe. Posso dirti una cosa? Che questo coronavirus ha sprigionato anche le grandi energie creative delle persone, no? Nei WhatsApp, nei come meme, sempre, come nella come dolore, sempre. Nella tragedia. Altra cosa, c'è un tema serio che affronteremo più tardi in questa disgraziata trasmissione, che è questo. Ovviamente col vostro contributo fattivo, reale, concreto, telefonate, messaggi, pernacchie, quello che volete. Il contributo fattivo a che cosa? Alla discussione fare sesso. Ai tempi del coronavirus, lo temevo. Si può fare, cosa non si può fare, le posizioni gradite al coronavirus e quelle sgradite al coronavirus. No, non è interessante questa. Come non si può fare niente in teoria? Una coppia stabile non può fare sesso, immagino di sì. Ma no, certo, se stanno bene sicuro, ma se uno ha la febbre, meglio di no. Ma no, tutto qua. Ma cioè, è normale, se tu hai no. la febbre, non faresti sesso con la tua compagna. Non ma non ti viene neanche voglia. Se hai la febbre, che cosa vuol dire ma che fai? Perché tu a 37 e mezzo non scopi di solito, a 37 e mezzo può capitare anche di fare qualcosina. No, ma per dire. Non mi pare il tema di attaccare anche l'influenza normale quando uno ha la febbre. Però ho capito. Però non ma è che. In carità, fate quello che uno volete, si può fermare con 37 niente, e mezzo. Niente, ho capito, però. Cioè, ma fate quello che volete. Per esempio, niente, con le persone, con gli sconosciuti, con una persona che non conosci, che cosa fare? No, non credo che sia consigliato baciare uno sconosciuto oggi. Dunque, le relazioni tra stabili sono più rafforzate in questo periodo, in teoria. Pure magari la c'è gente da dire ne... che in questo momento l'ottimo Robert Hannuna, che ci sta ascoltando da Tel Aviv, mi sta mandando delle foto inequivocabili che ti giro su come si può fare veramente un maiale. Sì, Hannuna, sì, ma quelle sono quelle che girano sposa, in questi giorni. Sai che si sposa? Cioè proprio. la pecorina è gradita mentre il rapporto mandando, tradizionale la posizione. Beh, io non entro nel merito delle questioni. Sì, l'hai mandato, sì, ma eccolo ti sto qua. Girando le cose che si Hannuna, quel maiale, perché va definito come. Sono le tre posizioni del Corona Sutra: usare lo stesso partner e o lo stesso amante e tenere sotto controllo l'igiene. Esattamente le tre posizioni del Corona Sutra. Cioè, anche quando hai una donna, diciamo, in una posizione che è quella detta alla pecorina, la distanza, poi la testa deve essere bassa, cioè la distanza tra le due teste, tra le due bocche. Deve essere considerevole. Comunque il bacio è escluso, sempre con una persona che non conosci bene, vabbè, ovviamente. No? Vabbè, andiamo avanti. Come dice Barisoni, andiamo avanti. Come dice Barisoni, Doriano da Firenze. Dimmi. Pronto? Sì. Sì, buonasera. Senti, mi devi far parlare 30 secondi. Sì, io allora, sto qua, non hai manco parlato. Allora, cioè 10 secondi. Allora, Doriano. Scusami, io. Andiamo. Mi è venuto in mente l'altro giorno. Mi è venuto in mente. Preparate Mughini, per piacere, che tra un po' lo mandiamo. Allora, me lo sento. Ascoltami bene. Sì. Ascoltami bene. Sì, quando è scoppiato il casino in Italia, che ne so, adesso non mi ricordo okay, più. Ok, te lo dico io, venerdì 21 febbraio, va bene? Allora? Bene, la borsa era ai massimi, no? Voi siete solo 24 ore. Non mi ricordo, preparate Mughini. Okay, me lo ricordo io, me lo ricordo io. È salita ai massimi proprio in quei giorni. Sì, dunque, preparate Mughini, Ora. Sì. Se io volessi far crollare le borse mondiali. Sì, sì, preparatelo. Okay. Attento. Attento. Non ho capito, scusi. A due settimane da quei massimi. Che cosa faccio? Che cosa faccio? Una domanda. Perché allodi il focolaio? E che ne so perché allodi? Cosa è successo? Ci sono tanti motivi, l'ospedale, il pronto soccorso. Due settimane prima. Che è successo allodi? Che è successo? Ah, il treno, il treno. Il treno, alle 5 di mattina, 30 persone. E quindi? Io mi chiedo, io mi chiedo. Poi, ti chiedo? Mi sono chiesto, così teoricamente. Teoricamente, sì. Sì. Ma le persone che erano sul treno, trasportate d'urgenza alle 5 di mattina ai pronti soccorsi della zona. Sì. Visto che il focolaio è scoppiato al pronto soccorso dell'ospedale che poi è stato infamato. Quello è Codogno, non è Lodi. Comunque vabbè, tutto sbagliato, non importa. Okay. Queste persone controllate? Sì. Perché la vecchietta che è morta lì a 88 anni. E tu mi stai dicendo che i veri c'è stato una specie di il vero focolaio è stato creato da quelli del treno. No, io non sto dicendo niente. No, io non sto dicendo. È una supposizione. Sedate Mughini. Mughini, basta. Chi era quel cretino di poc'anzi? Scusa, però in questo caso Doriano te la sei chiamata. Perché scusami, perché? Come fai a collegare? Basta, il treno, il treno di oggi? Perché l'ospedale è un evento straordinario. Che monta. Tanto è straordinario l'evento, tanto tu sei un coglione. Non sono un coglione. Perché Mughini, qui in 10 giorni hanno bruciato 5.000 miliardi sui mercati mondiali. E che c'entra quel cretino di poc'anzi? Ma scusa, ma che c'entra? Che cosa c'entra i bimbi? Adesso un altro collegamento. Un altro ancora. Cioè tu dici hanno fatto apposta l'incidente per infettare, spiegami qual è. Dico che hanno ma fatto come apposta. Non dici? Stai dicendo però. Non dico, però dici. È un teorema. Sai che cos'è un teorema? Non è un teorema, è una stronzata. Sì, sei sicuro che sia una stronzata? Io non lo so se è una stronzata. Ma cos'è che ti ha portato a pensare questa cosa? L'internet, il web? Non ho sentito. Ti sei svegliato? Il fuoco del caminetto. Perché ho pensato tutta sta cosa sembra una messa in scena. Una messa in scena. Allora? Perché succede proprio a noi? Perché succede proprio lì? Cosa è successo di lì? Cosa è successo in quei posti? Di cioè tu davanti al fuoco del caminetto l'hai pensata questa cosa? Sì, perché me ne sto rintanato in montagna perché ho paura anche a tornare a casa mia, se ho paura. Se. Lo so, quello è il problema, capito? Che uno davanti al caminetto. Ho paura a muovermi, mi sento prigioniero in Italia, capito? Io mi sento prigioniero. Ho paura per i miei figli. Posso chiedere per chi ha votato? Posso chiedere per chi ha votato? Posso chiedere per chi ha votato alle ultime elezioni? Mio padre prese per le orecchie mi fani su un palco, se questo ti interessa, quando io ancora non ero nato. Se questo ti interessa, va bene? No, scusami Doriano, tuo padre prese per le orecchie Fanfani su un palco, immagino ad Arezzo. Chi è? Tua moglie dietro? Chi è? Sì, che mi dice stai calmo. No, perché qui bisogna parlare un attimino tranquilli, ma. No, è giusto incazzarsi. Io sarò un coglione. Io vedo che le banche in Italia sono sotto attacco. In una settimana hanno perso capitalizzazioni per migliaia di miliardi. Non vorrei che qualcuno, sapendo esattamente quello più o meno, giorno per giorno, quando sarebbe scoppiato le posso il casino, dire cosa è successo caro lei stando tutto il giorno lì chiuso in casa con solo il telefono stando tutto il giorno chiuso in casa senti la moglie dietro. Ascolta palle d'oro, io parlo 5 lingue e sono un maestro di scacchi, te non lo so. Stare tutto il giorno chiuso in casa, io cretino non sono, è solo un'ipotesi. Un teorema. Sì, ma siccome qui ballano migliaia di miliardi al giorno in giro per il mondo, capito? Se qualcuno sa quanto viene giù tutto e lo sa esattamente, perché verrà giù a d'accordo, però magari ci fa 3-4 mila miliardi di dollari al ribasso. Qualche per chi ha votato lei alle ultime elezioni? Per chi ha votato lei alle ultime elezioni? Alle ultime non ho votato. Prima? Quelle prima? Vicino alla Lega comunque. Com'è? Quelle prima? Dico, per chi vicino ha votato? Alla Lega, Fratelli d'Italia lei. No, io la Lega secondo me le piace un po', sì.

Ma perché ce l'ha col suo autista cinese? Perché? Dottore, no, l'ha piato. Dottore, io autista cinese, portale a casa, così tranquillo, dottore, che anziano, dottore, di libero, io tutelo. Tutelo, dottore Feltri. Mi devi fare litigare col direttore, guarda, è incredibile. Dottore, risponde, telefono squilla, dottore Feltri. Perché sei capone nell'anima. Dottore, io aiutale, dottore, tutto il giorno. Non ce la faccio, dai. Non ce la faccio. C'è Susanna della Salaria, dottore, che... Dottore ha sbloccato. C'è Susanna della Salaria. Dottore, che... molto arrabbiato, non risponde telefono, dottore Feltri. Ola 19.55, chiude il giornale, 8:30 andare a mangiare Balletto Baglioni. Dimmi. Pronto? Dimmi. Mi senti? Dimmi prima se mi senti, perché già mi ha attaccato il telefono in faccia. Mi senti? Ma quando ti ho attaccato in faccia? Non ti ricordi. Allora, Giuseppe. Dimmi. Ti faccio complimenti la trasmissione. Non me ne frega niente, dai. Perfetto, su. Allora vado al punto. Ti confido una cosa che non sa nessuno, neanche i miei amici. Perché io voglio un attimo cambiare discorso, ti voglio parlare di... Non lo so se è un problema che ho, ti voglio parlare di una caratteristica. Sì, sempre che sia una cosa vera e non una cosa inventata sul momento per fare il coglione qui che non ce ne frega niente. No. È verissimo. E ti parlo di onanismo. Ti faccio un esempio. Mi sento con una ragazza, sempre mi capita, mi piace. Sì. E ovviamente alla fine l'obiettivo è quello, insomma, come tutti, di arrivare al sodo. Vabbè, di fartela, però, sì, insomma, non mi sembra una cosa così. A volte succede dopo un mese, a volte dopo due mesi, insomma, non è sempre immediata la cosa. Cioè, ragazzi, vabbè, dunque andiamo al sodo, dai. Nel frattempo, io immagino, ovviamente, e di notte, ecco, diciamo, mi faccio compagnia da solo e creo delle aspettative. E allora? Un livello di... Poi quando si arriva al sodo con lei... Cioè, rimango sempre deluso, è come se preferissi masturbarmi pensando alla ragazza. Buono, sì, buona questa cosa. Una buonissima riflessione. È una buonissima riflessione. Voglio un tuo parere, ma te lo do velocissimamente. Mi sento in imbarazzo. Allora, mettiamo che sia vera questa cosa. Cioè, ti piace di più la masturbazione che il rapporto vero e proprio con la ragazza, cioè la masturbazione pensando alla ragazza piuttosto che il rapporto vero e proprio, giusto? Poi arrivo a stare con la ragazza, è quasi una delusione perché preferisco fermo. No, ma perché bisogna che si curi? Vado da una psicanalista. Adesso resta lì. La zanzara. Oh no, la mucchina è finita. Ci penso io, va. Ecco mucchina. Già lo usavo, ma adesso di più. È perché tutto questo allarmismo che stanno dando. E la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma... Basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. E la gente... Già lo usavo, ma adesso di più. La mascherina no. La mascherina no. Già lo usavo, ma adesso di più. Già lo usavo. Io sono mangiato le cose quando stavo con lei, le cose, polpe, pesce. Prince. No, è possibilissimo. Allora, ragazzi, vi devo dire alcune cose fondamentali prima di proseguire con questa disgraziata emissione. Direttore è chiusa la linea. Telefonate, sì. E sei incazzato, è incazzato per lo pigli per io il culo. Ho detto, si incazza. Sempre direttore anziano, fale con calma giornale, uno letta massimo, uno letta mezza. Ho capito, però l'hai fatto incazzare. Sballa titolo direttore, poi viene fuori grande casino. Grande casino. Glande, sì, ma non puoi glande, dire seriamente che un titolo glande del genere che ha fatto sul virus che io va al sud direttore, è una direttore vergogna. Fa quel titolo, viene fuori casino. Ho il capito, viene fuori casino all'abbia, perché la gente rompe i coglioni. Ho detto, non dai, fare titolo, non fare titolo. Sei anziano, non deve fare titolo. Non devi andare al ristorante Baglioni, bere vino per fare titolo. No, ho detto, non fare titolo. Lui ha fatto titolo, casino. Allora, vi devo dire alcune cose. Allora, la prima è questa. La prima è questa. In tutto questo casino, secondo voi, che cosa fa l'ufficio stampa di Forza Italia? Ora, David, la notizia è anche divertente, per carità, susciterà la curiosità di qualcuno, non c'è dubbio. Ma ti pare normale che la notizia della divisione, della separazione non erano sposati, ma insomma della rottura tra il signor Berlusconi, cosa che ormai sapevano tutti, peraltro, e la signora Pascale, Francesca Pascale, debba essere annunziata urbi e torbi dall'ufficio stampa dei signori di Forza Italia? Cioè, un partito politico, perché Forza Italia, fino a prova contraria, è ancora un partito politico. E anche si presenta è alle elezioni. Secondo te, fai un comunicato stampa per dare notizia della separazione tra la Pascale e Berlusconi? Ma che roba è? No, cioè, ma manco Kim Il-sung. Ma che affare di Stato? Ormai, no? Prima non frega più un cazzo a nessuno perché Berlusconi non è al governo e forse non è manca all'opposizione. E là è Berlusconi, sempre un gigante, un genio. Lo adoriamo, lo abbracciamo fortissimo. Però, come fai tu Forza Italia? Adesso io dico, non frega un cazzo a nessuno, ma è stata data da Forza Italia l'annuncio, amico mio, l'ufficio stampa di Forza Italia. Dai, su, di cosa stiamo parlando? Dai, ma come si fa a venire, come ti fa venire in mente una cosa del genere? Ma io chiamo i miei amici di Forza Italia e dico, ma chi ha fatta questa roba qui? Chi l'ha fatta? E lui sta zitto perché chiaramente non vuoi dire niente, perché potresti dire le peggio cose, ma non hai il coraggio di dirlo. Dire. Sì, perché questa idea di attaccare Forza Italia per lo forza, ma l'avete non lo fatto sto attaccando, per che me ne frega. L'avete fatto per vent'anni, attaccare. Adesso bella Pascale, si lascia, che mi frega. Ma non me ne frega niente, infatti, non me ne frega nulla. Un comunicato ufficiale. Ma dai, beh, è ridicolo, dai, ma tu. Sì, ma è una bene, cosa ridicola. Ma non mi sembra questo il problema, dai, non su, mi sembra. Dai. Presidente! Questo sarei io. Come no, presidente. Sì, però non dissi esattamente così. Comunque non importa. L'altra cosa è che il cinema porno si sta adeguando al coronavirus. Ora tu dirai, stanno sciacallando, sono degli sciacalli, perché vedo che sì, addirittura su Pornhub ci sono più di 100 spezzoni di film, scene di film con persone che fanno finta, ovviamente non sono malati veri, che sono lì assistiti dalle infermiere con la mascherina. Attori che si mettono la mascherina per trombare, ma chiaramente senza alcun tipo di funzione. Mi sembra di cattivissimo gusto, se posso perché dire. Di cattivissimo gusto? Mi sembra quasi come il titolo di libro, mi sembra veramente una roba di pessimo gusto. Allora, eravamo con Filippo da Napoli, che ha problemi con la masturbazione con la fidanzata. Dai, forza, sì. Dimmi Filippo, allora, sì, come la risolviamo no, questa cosa? Non si risolve. Se ti piace di più così, ma continua, è... così. Continua, ma non così. È la prima volta, non è la prima. Ti racconto questa cosa brevemente. Io ho una, diciamo, amica che quando voglio, insomma, contatto, e quando lei è libera, fidanzata, singola, insomma, ci vediamo. Allora, ci vediamo, consumiamo, andiamo, la scopriamo. Ma lei è sposato, ad esempio? No. È più piccola di me, ci avrà 25 anni. No, lei che parla. Adesso è anche single. Io? Ah, mi stai dando del lei? No, non sono sposato, sono single. Vabbè, single. Comunque, ti piace di più la masturbazione, sì, piuttosto che l'atto? Ma guarda, è quasi sempre così, uno si conosce meglio, per cui è così. Fermi tutti che devo chiamare Sgarbi, fermo là. Pronto? Eccolo! Come andiamo, professore? Io voglio capire una cosa. Innanzitutto, tu che hai 67 fottutissimi e dannatissimi anni, come ti stai regolando come con l'invito, a parte che ne dimostri molto meno. Com'è, ma insomma, sta roba di mantenere un metro di distanza tra le persone, non darsi la mano? Sto andando a Codogno, vado a Codogno a Piacenza questa sera, domani a Reggio. Ma come a Codogno? Ma non si può, come a Codogno, non si può entrare a Codogno. Vado, e se ci arrivo fino al confine, poi voglio che mi caccino. Ma cioè non si può entrare, ma sei un numero uno. Mi diranno che non posso entrare, dirò entro lo stesso, faccio un'ispezione. Si posso entrare in un carcere come deputato perché non posso entrare in un ospedale. Ma devi metterti la mascherina, però non contagerai tutta l'Italia, altrimenti è un problema. Io sto girando tutta l'Italia come un forsennato e oggi mi è arrivata finalmente una notizia. Allora sei tu il paziente zero. Aspetta, qual è la notizia? Abbiamo trovato il paziente zero. Erano trovati in Germania, il virus muore a 26 gradi, quindi basta stare sì, caldi, siamo a posto. Tra un po' entriamo nella stagione buona. Mi pare di capire che tu giri tutta l'Italia e non te ne frega un cazzo di questi qua del governo dicono che bisogna stare... quando ho scopato tutta l'Italia, al tempo dell'AIDS, io sono la prova che l'AIDS non esiste. Cioè esiste se tu fai delle operazioni un po' radicali, specialmente posteriori, impastando sangue e merda. Ma se vai con un uccello non troppo duro, nella tenerezza della fica, entri e esci intatto, perché la fica non ha i denti. Mentre voi usavate i preservativi, io andavo libero e sono più sano di un pesce, e il preservativo lo uso solo per metterlo sulla testa di quelli che hanno la testa di cazzo, che sono gran parte di quelli che ci governano. Preservativo per Di Maio, preservativo per Conte, preservativo per Speranza, sulla testa, così si tolgono i coglioni con la loro rottura di palle. Secondo me sei tu il paziente zero, quello che cercano in tutta Italia. L'hanno trovato in Germania. L'hanno trovato in Germania. È lui, ma che in Germania è Sgarbi il paziente zero. Però scusa, Vittorio, devo dirti la verità, nei giorni scorsi un po' di terrore, questi qua, soprattutto dalla regione Lombardia, un po' me l'hanno messo, leggermente poi me l'hanno... capito che sono i peggiori, hanno rotto il cazzo, no, il tema quello che... Parenzo rompe il cazzo con questi ospedali il vero tema. Bisogna star zitti e seguire le indicazioni degli esperti, fine. Bisogna star zitti e seguire le indicazioni degli esperti. Gli esperti sono come Scanzi, hanno trovato la possibilità di andare in televisione e vanno lì a cazzeggiare. Cioè, pensa a Burioni, se Burioni voleva fare il deputato, ma lì lo interrogano come se fosse l'oracolo. Hanno rotto il cazzo. E ognuno si alza la mattina e dice: no, non c'è, è in Germania, no, nasce col pipistrello, vado a darvi al culo. Hanno rotto il cazzo, hanno rovinato adesso, l'Italia. Però, scusami. Ma io ti voglio un bene dell'anima, però dico, così come non chiederei a un virologo un commento sul Caravaggio, così non chiedo a Sgarbi un commento sul virus corona. Questo è il tema. Burioni capiscono di più, non sanno un cazzo, sono delle capre, non dei virologi. Sono dei capre, che contaminano i cervelli di Speranza, di Conte, di Di Maio, quindi sono la testa permeabile di vuoto e gli entra dentro il morbo dei virologi, che è una cosa turpe proprio. Capire che non hai paura del virus, tu al virus ti fa una pippa te il coronavirus. Proprio il virus, cioè io sto girando tutta l'Italia per incrociarlo, se lo vedo si caga sotto il virus. un po' come la cocaina, ti ricordi che la cocaina? Contro la cocaina si eccita, il virus muore, un virus di merda che non fa un cazzo, solo che fa venire un po' di raffreddore, ma che raffreddore, c'è qualcuno che c'è morto pure del corona, era già malconcio. Sì. Scusami, ma tu per esempio te la faresti una che c'ha il coso, una che c'ha il virus, il coronavirus? Loro, perché mica ce l'ha la figa, no? Cioè, tu ma cosa c'entra? Figa? Ma te lo puoi attaccare col bacio, con la saliva? Che discorso è? Col bacio, vabbè, ma che buono il bacio. Dicono che non bisogna baciarsi. Che cazzo, non so, tu mi sembra che stai continuando l'attività sessuale come prima, mi pare di capire. Come prima? Sì. Come prima? Ah, più di prima, ti amerò. Sei tu quello che sta creando la pandemia. Perfino voi due, cioè Cruciani è un temerario, ma perfino Parenzo, secondo me, dice l'opposto di quello che crede. Cioè lui sa che non c'è un cazzo, però gli piace fare la parte della persona per bene. Responsabile. Io sono solo nipoti della radio. Beh, qui potrei querelare, qui potrebbe partire la querela. Cinipoti è un medico. Tu con una che c'ha il coronavirus ci andresti tranquillamente, senza problemi. Se stai piedi, dipende, no? Perché il problema, quello che dicono, no? È che occorrono terapie intensive, quindi il problema reale, lo sa anche Parenzo, è che sono troppi da mettere in terapia rispetto ai posti degli ospedali. Esatto, però non hanno detto esatto. Che è la lebbra e la peste. Quelli che hanno un problema siano in casa, si facciano un aerosol e sono fuori dai i coglioni, se lo fanno da soli la terapia intensiva. Invece appena viene il raffreddore vanno all'ospedale, rompo del cazzo e si fanno recuperare per 10 minuti. È tutto un mondo di deficienti, si contagiano un cervello. Senti, è veramente una follia. La Pascale, vabbè, la Pascale e Berlusconi si sono lasciati e Berlusconi questa, sta con questa qua. Io lo sapevo da 10 giorni. Sì. Chi è questa qua? Chiamato lui dalla Svizzera. Ma io voglio capire una cosa, ma secondo faccio te un identikit adesso di ci farà l'identikit però di questa qua, non so se la conosce, però la cosa sì, principale è in Parlamento, è una ragazza bionda e mite che secondo me, a quello che posso dire, ma non vorrei fare pettegolezzi, aveva già trovato un'intesa con lui da almeno un anno e mezzo. Sì, sicuro. Dicono alcuni che quando io andavo ad Arcore, la Pascale stava a casa sua perché lui le ha preso la casa, mentre in casa, nascosta in cucina, c'era questa ragazza, la quale essendo timida non si affacciava. Però probabilmente lui è passato da, per quanto lui c'ha la mania però di fissarsi su una, è molto meglio lasciar perdere, andare vaganti come il virus. Ma che scherzi, lui è passato da una prepotente sadica a una invece sottomessa. Questa è interessante. Questa qua probabilmente lo guarda e guarda come sei bravo, come sei bello. A un certo punto non ha voglia di fare competizioni, perché la Pascale era piuttosto è dominante, dominante. Veramente credo che sia l'ideale per lui, cioè una donna che non rompe il cazzo a questo punto, che non rompe il cazzo, diciamo in sintesi. La quale in tempo di femminismo sembrerebbe una figura negativa, ma mentre la prepotente si scopre, la sottomessa è veramente dominante, perché ti domina fingendo di essere sottomesso. Questo è interessante, molto interessante questa cosa qua, cioè quella che sembra così aggressiva in realtà poi... Infatti ha vinto contro la Pascale, ha vinto perché caro, sono qua, vieni, come sei tenero, come sei buono, questo si è cascato. Ma questa non l'hai timbrata tu questa qua, no? Questa fascina? No, perché sai, mi guardava con un'aria estatica, sembrava la Santa Cecilia di Raffaello con gli occhi al cielo, e si sentiva come colpita dal mio sguardo. Cioè sei arrivato troppo tardi per timbrare questa fascina. Era già nel virus Berlusconi. Queste qua hanno un culo pazzesco. Ti rendi conto che culo che hanno queste qua? Quella ha avuto una rendita per tutta la vita, ha fatto i figli, vabbè, d'accordo. E la Pascale è una ragazzina che si è trovata in mano praticamente adesso, si è non dico liberata, insomma, si è lasciata con Berlusconi e ha ma lui è generoso, quindi lo fa. E lui è a posto, lei e tutta la sua discendenza, non so per quante generazioni, con quello che ha ottenuto da Berlusconi. E in più sai adesso dobbiamo rimpiangere che non sia omosessuale, che sarebbe stato perfetto anche per noi. Senti, una cosa in finale su Napoli. È uno come me della vecchia scuola, della vecchia azienda. Napoli, sei incazzato pure te per questo specie, per questo minimo di consenso che c'è contro il rapinatore quindicenne che ha, no? Guardi, mi hanno interrogato su questa materia e ho detto che il tema è che quando uno fa la scuola della criminalità con i genitori che vanno a sparare alla polizia è in un ambito camorristico, per cui non puoi accusare di omicidio volontario un carabiniere che è educato alla lotta contro la mafia. Alla fine il carabiniere può anche avere esagerato, ma l'ha fatto in nome dell'antimafia. Se educhi tutti all'antimafia, poi sei di fronte a un piccolo mafioso con la famiglia mafiosa e camorrista, non è che è un omicidio volontario. Sì, non è che poi difesa... cioè non è che puoi stare troppo a discutere su come spari e quando spari, no? Perché altrimenti, cioè, in un contesto del genere poi non è che ti puoi mettere a discutere sì, ha sparato il terzo, il quarto, il quinto colpo. No, è un omicidio volontario. Pone premeditazione. È un omicidio che tu non hai in alcun modo premeditato, ma che è chiamato dalla situazione. Licet nunc. Scusami, ma Gomorra ha responsabilità secondo te? E Gomorra, certo, quando educa, no? Non per il povero carabiniere. Il problema è che abbia le armi e abbia la volontà del furto, quella sì premeditata, un ragazzino che non va a scuola non impara nulla, ma guarda Gomorra e impara a diventare un criminale. Quella scuola lì vede il responsabile di tutte queste cose in Saviano, cioè Saviano ha creato il mito del ragazzino che è furbo perché non ha nessuna possibilità che il mondo della criminalità. Lui ha scritto l'altro giorno la colpa è di tutti noi, la colpa è di tua. Ciao. Bravi. Vittorio, presto, ciao avanti. Bravi. Tutta viva il virus. No, ma come, ciao. Che si dice, pazzo, la zanzara. E i 5 Stelle invece dove vanno, Vittorio? Ma i 5 Stelle, da quello che ho potuto vedere in questi mesi, stanno andando a fare il culo. Pronto? Guarda, ma va a trappi angole, guarda, a te grindri dici, tu vuoi clandestino. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanchè si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Sant'Anché? Piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Sant'Anché? Una vergogna! Una vergogna! Dell'AS di Napoli hanno detto che non la mocchina è efficace, lo spirito, manco spirito, è l'alcol, sarebbe un spirito, che infatti fatta figura di mezzo, come l'alcol, pensavo un bere, un whisky, no, l'alcol, voi come lo chiamate? L'alcol è quella per bere, no, è un sivettante, lo spirito, voi come lo chiamate? Io chiamo un spirito, voi chiamate l'alcol, a me l'alcol è caro, non posso bere, prima si fatta una figura di mezzo per andare a raccontare. E te comunque l'alcol ci vuole lo spirito, va? Quella è l'unica cosa efficace. Il maggio passato ci andavamo indietro la porta, poi ci avrà la macchina, ci avrà la casa, il telefono, coppa la tavola. Comunque sto passando uno, sta sempre più contatti, eh? Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. Comunque ragazzi, in tutto questo casino succedono delle cose incredibili. Don Luciano Massaferro, il nome non vi dice nulla, condannato a 7 anni e 8 mesi per violenza sessuale nei confronti di una chierichetta di 11 anni, è tornato a celebrare messa in provincia di Padova. Qua leggo da questa, dalle cronache. Che vergogna. No, anzi, non è provincia di Padova, scusa. Sì, provincia di Padova. Il Tribunale Ecclesiastico di Genova, curia di Angelo Bagnasco, nel 2018 arrivarono a una conclusione opposta rispetto a quella della magistratura italiana, la soluzione. Poi invece è stato condannato. Che succede? Che questo signore, in realtà la chiesa è Sant'Antonio da Padova a Borghetto, cioè in Liguria, Luciano Massaferro, dunque Padova non c'entra nulla, Don Lu, così veniva chiamato dai parrocchiani, 55 anni, è tornato a dire messa per mancanza di altri preti. Tu capisci qual è la storia, no? Sì, incredibile. Capisci, no? È tornato a dire messa. Ok? Ok. No, ma per dire, okay. Cioè, ma ti rendi okay. conto di questa storia? No, volevo sentire. Okay. Mi sono fatto, mi è venuto in mente quello che diceva l'altro giorno Don Fanzaga sui pedofili, eccetera. Me lo volete ripescare un attimo, Fanzaga? Fanzaga sui pedofili, quello che non abbiamo. Quello che era ieri ancora. Ovviamente il piano del diavolo è di far di ogni erba un fascio, far dimenticare, diciamo, che l'80, 85, 90% dei preti che sono fedeli. Perché questa è la verità, perché scusa, adesso non è per dire, insomma, io sono nella chiesa quando ho 14 anni, non ho mai incontrato né un pedofilo né un omosessuale. Sarà che io non ho quelle tendenze, però di fatto è così. Ah, perché non l'ha incontrato lui, allora non esistono i pedofili, diciamo, stesso. Ma questo è pazzo. Cioè, ma questo qua, Don Fanzaga, è incredibile, è incredibile. Altro che chiudere la Zanzara, perché in realtà non dovrebbe chiudere nemmeno Radio Maria. Tutta la piglio con questa trasmissione. Ma guarda quello che dice questo signore qua, io non l'ho mai effettivamente conosciuto. Allora, è abbastanza. Dovrebbe sapere il signor Fanzaga che ci sono tre episodi riferiti a una bambina di 11 anni. Una bambina di 11 anni di questo signore. Nel primo la piccola aveva raccontato che mentre era in moto con il sacerdote per benedire le case, Don Massaferro le avrebbe detto di essere nudo sotto la tonaca e le avrebbe chiesto di toccargli il pene. In seguito il sacerdote, disse la bimba, l'avrebbe portata in un capanno dove si sarebbe spogliato nudo davanti a lei, chiedendole di toccarlo. Lo stesso sacerdote, secondo l'accusa, avrebbe poi toccato la minore. Un'esperienza che avrebbe provocato nella minore un trauma profondo. Arrivò una condanna definitiva a 7 anni e 8 mesi. Questo qua dice ancora messa. Ma poi non ho capito, una condanna definitiva a 7 anni e 8 mesi non va in galera? Uno accusato di queste cose qua non sta in galera? Beh, non sta in galera, teoricamente cazzo. Dovrebbe essere, certo. Oh, ci ha chiamato Tommy Acanaglia, grandissimo Tommy Acanaglia, porno attore, insieme alla moglie Lady Muffin. Ciao Tommy, come stai? Sì, sono io, Tommy Acanaglia. Grande Tommy. Buonasera. Sì, sì, dimmi tutto. Mancava, caro Tommy. Il parere, mi sembra diciamo. Di capire. Ciao Davide, Mi sembra di capire, caro Tommy, che anche tu sei stato protagonista, se non sbaglio, e se non ho sbagliato inquadratura, di alcuni di questi di queste scene con la mascherina anti-coronavirus, che poi in realtà è una finzione. Senti, quello che già figuriamoci, Davide, tu mi devi dire in due giorni, ok? Un video girato con la mia signora Lady Muffin, che poi adesso ti faccio, che deve dirti assolutamente. No, signora, 35.000 video, cioè, ma no, cioè, ma certo, 35.000 view. Okay, lui sta dicendo, che siete, no, sostanzialmente, ma non è monetizzabile una moglie e il marito che fanno sesso per il coram populo, diremo. Cioè, voglio dire, non è una roba che io monetizzerei, però per carità. Vabbè, se fa quelli fanno così, che cazzo vuoi dire? Tu contesti il fatto che quella si sia messa una mascherina in faccia? Cioè, no, io contesto il fatto che questa allegra e simpatica famiglia, che mi sono anche tutti molto simpatici, però facciano queste porcherie saranno familiari, cazzi loro quello che vogliono fare. Per carità, capisci che se in due giorni si arriva a 35.000 visualizzazioni, vuol dire che il popolo ha bisogno del porno. Ma questo d'accordo, ma ho perché capito. A me darebbe un ma po' fastidio l'idea messo la che mia moglie venisse vista coram la mascherina populo, l'ha messa però... Lady Muffin. Davide, Lady ascolta che bellissima, allora, la mia signora Lady Muffin ha indossato signora, la mascherina, cioè. Sì. Poi diciamo che dopo un certo punto si è stato fatto un foro, no? Diciamo davanti questa mascherina, perché c'era il virus che entrava, capisci? Allora, in realtà tu hai messo il tuo uccello davanti alla mascherina per fare il marito. Sì. Ma perché marito e moglie non possono scopare nel porno? Ma quello non c'è obbligo, ma che lo facciano coram populo, è quello che a me mi ma quello devono fare, matti. Vogliono fare quello come ma mestiere, vorrebbero essere pagati. Ha bisogno di noi, Davide. Ma io, Davide, io allora, quando io faccio l'amore con la mia signora di Massi, sì. No, ogni tanto, no, viene fuori il nome David. Mia moglie adesso te la passo, ti spiega lei guarda, vorrebbe sì. Sia una fantasia sua tutta, adesso te la passo. La signora. Pronto? Ciao, signora, Lady, ciao, buonasera, signora, buonasera. Davide, sì. Amore mio, io ho un desiderio. Voglia di squirtare sull'abito più costoso che hai. Ma come si permette? A parte che state chiamando, mi sembra da una caverna, non so da quale anfratto. Siamo in macchina, mi sono fermato in macchina. Cioè, Davide, perdonami. Ma se Lady Muffin ti vuole squirtare su un abito, ma fatti squirtare. Abbiate altre fantasie, ma per carità. Ma i miei abiti lasciateli stare, che sono del Sarto di Napoli. Scusi, Lady, me la passami un attimo, Lady. Passami un attimo tua moglie, un attimo. Scusami, Lady. Scusa, non basterebbe squirtare a Parenzo, che ne so, sul volto, sul petto, sui geni, o sui genitali, assolutamente sull'abito più costoso che ha, proprio è un eccitamento mio, ma voi due, scusami Lady Muffin, voi due insieme quando fate all'amore con tuo marito, sì. Cosa che credo che vi capiti poco, perché fate talmente tante scene di sesso, c'è sempre tanta gente o comunque ci sono sempre inquadrature, perché ma pensate ogni tanto a Parenzo come no, sogno. Io lo menziono spesso, David, assolutamente, mi eccito tantissimo. Mi faccio una gentilezza, non menzioni, mi faccio questa piccola gentilezza, non menzioni. Se lei ha queste fantasie, a un certo punto, se mai dica il nome di Fusaro, ecco, questo potrebbe essere o Feltri. Fusaro non gli prende. O Feltri. Non gli prende. Ma se si eccita con Parenzo, falla eccitare con Parenzo, le qual chiedo è? Gentilmente di non fare il mio nome, è possibile? Ma Davide, scusa, ma tu quando fai l'amore con la tua signora, cioè non hai delle fantasie erotiche su altre donne? Io penso sempre alle altre femmine. Esatto, ma invece Lady Muffin pensa a Parenzo, dovresti essere orgoglioso. Ogni tanto, Cruciani dice no perché è sporco, non si ha. Però Davide, con questi abiti, sai, con questa verve, col verbo che hai, il tuo vocabolo, e questa qua. Lady si eccita. Scusami, Lady, un'ultima cosa. Nella scena quella con la cosa così contestata da Parenzo, perché dice che è di cattivo gusto, che succede a un certo punto? Cioè, c'è un buco all'interno della mascherina? Che succede? Allora, intanto io praticamente sono in macchina mentre prendo le chiavi e questo virus mi abbassa i calzoni e entra dentro di me praticamente. Sì, sarebbe il virus del marito, il pisello del marito. La metafora. La scena successiva invece noi facciamo un buco alla mascherina perché poi pratico del, si può dire, sesso orale? Certo, beh sì, assolutamente. È la cosa più educata detta nelle ultime ore, quindi non c'è problema. È una scena veramente bellissima da guardare. Ok, comunque secondo me la fantasia di Parenzo può essere realizzata anche senza vestiti. vestito, che secondo me lui senza vestito ci potrebbe addirittura stare. Fermi tutti, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Adesso la borsa. La zanzara. Morirete tutti, lutte merde. Ho capito che è il momento sbagliato. Non c'è nessun caso di coronavirus accertato all'ospedale di Gela. Nessun. Sono usciti voci che arrivano questa. Non c'è nessun caso di coronavirus. Vi spiego un pochino i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento. Quali sono? Nella regione Lombardia ci abbiamo Bertonico, Casapustolenco, Grundo. Qui ci sono le zone che dove c'è il focolaio. No, è possibilissimo. Spatalo, c'è bisogno di Spatalino, Parenzo, c'è bisogno di Spatalino. No, non c'è bisogno. La siringata quotidiana di Spatalino, vai. Con i casini che abbiamo in Italia. Che succede? Sì. La gente muore, infettata, in quarantena, e voi ancora mi rompete le scatole con i migranti. Ma chi? Ma cosa avete in testa, signori vescovi? La segatura! E batte la mano. Sta protestando per quei vescovi che parlano di accoglienza, non so chi in particolare. Senti. Italian first, si scrive first, ma si pronuncia first, prima gli italiani, chi se ne frega di questi migranti. Ho attaccato il giornale dei vescovi, l'Avvenire, l'Avvenire, perché si dovrebbero preoccupare dei nostri connazionali e quelli pensano ancora ai migranti. Povera gente, poverini. Ma signori vescovi, non basta ancora? Cosa ci dobbiamo mettere a 90 gradi per farci inchiappettare? Ma chi è detto? Complimenti alla Grecia! Bravi questi ellenici, bravi! Hanno bloccato le frontiere, addirittura sparano! Così bisogna fare! Che brutta persona! Che persona orribile che è! Che persona orribile! Allora Pietro da Milano, vai Pietro da Milano. Ciao Crux, shalom. Dimmi, David. Dimmi. Shalom a lei, grazie per aver chiamato. Senti Crux, mi spiace doverti attaccare, ma ieri sei stato un po' un coniglio, secondo me, col padre del ragazzo. Sì, guarda che ci sono due possibilità in quel caso. O attacchi frontalmente, però la telefonata dura un minuto. Oppure cerchi di farlo parlare, di controbattere quello che dici. Due tecniche sono entrambe valide. Qualche volta uno usa quella, qualche volta uno usa l'altra. Per cui non mi rompere i coglioni e vai avanti. No, dimmi. Però non sono d'accordo perché. Non sei d'accordo, ma siccome io sono qua e tu sei dall'altra parte, ti lascio dire che non sei d'accordo. Ma non conta nulla quello che dici tu. Cioè, se sei d'accordo o non sei d'accordo. Però volevo dirti che secondo me. A parte che quello lì, il padre ragazzino, è un recidivo, perché dopo aver fatto le rapine adesso continua a rapinare lo Stato prendendo il reddito di cittadinanza. Beh, quello secondo, però lo prende questo secondo, è un argomento, una legge dello Stato. È un argomento. Dai, David, non difenderlo, che fino all'altro giorno non è che lo difendo. Quelli dei 5 Stelle. Però adesso, lo dico, io revo del reddito di cittadinanza, una cosa sarebbe troppo lungo, una mezza follia, andrebbe rivisto. Però quello lì, non possiamo dire che è un ladro perché prende il reddito di cittadinanza. No, quello no, per quello no, lui, no, però Pietro dice, Pietro dice, prima rubava con le rapine. Vabbè, non c'entra adesso, niente, ma adesso sempre senza lavorare va lì e prende i soldi dallo Stato, cioè non è No, vabbè. Ma comunque quello che volevo dirti era che la misura che bisogna fare in questo caso, perché il ragazzino poveretto, qual è? Togliere ragazzino è morto tra l'altro, per cui che togli la patria potestà, morto quello, cioè, sì, vabbè, puoi pure togliere la patria potestà, ma è morto il ragazzino di 15 anni. Magari ha fratelli il povero ragazzino. Sì, forse. Ho capito, le non è che responsabilità sono individuali. Vabbè, Tommaso, provincia di Trento, vai Tommaso. Mi senti? Ti sento, dimmi. Senti, ascolta, io voglio dire, poco fa sento di Sgarbi, poi sento di Radio Maria, quella roba lì, no? Sì, sì, sì. Tanta roba rimane insieme. Radio Maria è il più grande network mondiale. Ma io rispetto, io rispetto assolutamente Radio Maria, assolutamente non vorrei mai che fosse chiusa Radio Maria. Contestavo ci mancherebbe una frase del signor Fanzaga, che dice di non avere mai incontrato di merda che scopa da nord a sud, ancora devo capire. Cioè, qua si parla di femminicidio, poi fate parlare Sgarbi in quel modo. Ma che c'entra il femminicidio con Sgarbi che dice di scopare? Scusa, ma che dici? Sei se pazzo? Volete continuare a distribuire merda per l'Italia, come la Zanzara, fallo pure, tu sei il capo, ok? Ma Tommaso, di che parli? Di che parli esattamente? Sei il capo di una gran radio di merda. Ma di che parli esattamente? Farlo con piacere. Tommaso, di che parli esattamente? Di cosa stai parlando? Non ho capito. Prima parli tutto quello che fai, sei un distributore di merda dalla mattina alla sera, ok? Fate qualcosa di utile per questa comunità. La tua feccia di mercato è appunto una feccia di e mercato. E perché chiami allora? Perché chiami? Qualcosa, perché chiami? Perché chiami? Perché chiami? Rincoglionito, perché chiami? Se non le rispettate rimarrete perché soli. Chiami? Perché chiami? Merda. Perché okay, chiami? Cruciani? Perché chiami? Rincoglionito, perché continua chiami? Perché chiami okay. Allora? Perché hai chiamato? Perché hai chiamato? Per dire a quei dementi dei tuoi ascoltatori. Ma per dire okay, che sei un cretino, questo è il punto, che sei un imbecille. No, tu sei un pezzo di merda che hai fatto soldi senti l'altro, sulla senti merda, l'altro, ok? Senti l'altro, come sei un pezzo di merda che fa soldi sulla e merda. Tu saresti ciao, quello vicino a Radio Maria, saresti. Beh. Oh, domani lo richiamo questo Tommaso. Intanto con noi un grandissimo, ragazzi, un grandissimo, direi un gigante, uno dei nostri andrologi di riferimento. Uno dei nostri urologi di riferimento si chiama Nicola Mondaini, l'abbiamo già ospitato a Firenze l'orario nella nostra ultima e mai dimenticata esterna. Caro Nicola, partito come stai? Tutto, se eccoci ci pensiamo. Qua. Buonasera e grazie per la presentazione. Buonasera, ma eccoci se ci qui pensate, tutto partì dall'ultima diretta col pubblico della Zanzara. Io c'entra? Non escludo che il coronavirus si sia diffuso quando in Italia. Quando ho baciato il consigliere comunale di Prato, dici io tu. Non escludo che tu sia il paziente zero, perché lì hai fatto un danno enorme al paese. Lì. Anche con la storia dello Squirty che dici sì, questa cosa qua. Con la storia dello Squirty, il demone, chi c'era lì poi? Il nero, lì come si chiama? Quello vestito da egiziano, il faraone nero, una congrega di disperati, un circo di rincoglioniti. C'era anche il dottor Mondaini, però c'era no, anche... quello è l'unica persona autorevole che era presente. Scusi, grazie. Il sesso ai tempi del coronavirus, innanzitutto una cosa, fare sesso in questo periodo è consigliato oppure una domanda semplice? Beh, semplice febbre, no, allora ovvio, è consigliato addirittura. Non un sesso occasionale, questo è chiaro. Cioè, siamo... come non occasionale? Cioè, bisogna farlo solo col proprio partner? No, dobbiamo stare a casa, questo è il messaggio che viene mandato dal mondo medico, è un messaggio giusto, e quindi a casa, in questo caso, dobbiamo fare all'amore. Perché fare all'amore aumenta le difese immunitarie, c'è cioè una produzione di endorfine, aumenta le positive. Addirittura, quindi, cioè trombare aumenta le difese immunitarie? Assolutamente sì, l'attività sessuale innalza il sistema immunitario, questo è dimostrato. E dunque lasciamo perdere il cibo, le vitamine, tutto quello che ci dicono in questi giorni di rottura di coglioni, che può valere sempre naturalmente, però tu stai dicendo, per quello che è il tuo ambito, e la trombata, tu lo chiami fare l'amore, io lo chiamo trombata, comunque fare sesso, così lo capiscono tutti, fare sesso col proprio partner e non in maniera occasionale, alza le difese immunitarie, può essere una buona protezione, giusto? Può essere una buona protezione, chiaramente in questo momento lo rimarchiamo che è consigliato stare in casa e l'attività sessuale deve essere un'attività sessuale sicura, quindi assolutamente fatta con il partner. Ecco, appunto, cioè, mettiamo il caso, vabbè, uno è sposato, eccetera, tu dici se proprio deve tradire, sì, no, ma lui sta dicendo o sposata, una cosa abbastanza, naturalmente, o una compagna. Di assoluto buon senso, cioè dice siete lì in casa, magari la moglie esce 5 minuti, evitate di farlo con la cameriera, con quella che fa le pulizie. Questo mi sembra anche una cosa di buon senso. In questo momento bisogna stare attenti. Perché anche baciare una sconosciuta non va dice, bene? Non fatelo con la governante, esatto, fatelo esatto, con cioè, questo mi sembra. Esatto. In questo momento questo... il bacio, gli affetti, tutto quello che è l'avvicinarsi, tutto quello che fa parte di una sessualità, purtroppo è pericoloso. Per perché chiaramente sappiamo benissimo come si propaga il coronavirus. Questo però italiano. scusami Nicola, mettiamo il caso invece uno che ne so, cioè vai in un bar, anche se ormai insomma non è così facile, vai in un bar, incontri una che non conosci e poi le persone vanno in albergo a casa di uno o dell'altro, eccetera. E che uno va al bar e che succede? Quali sono le posizioni da evitare? Perché su web circola qualsiasi cosa. Cioè, allora, io direi che in questo momento chiaramente bisognerebbe evitare, ma chiaramente la vita deve andare avanti, non è che ci si può fermare. In questo momento vale, prima di tutto, quello che vale da sempre e che ringrazio l'invito per rimarcarlo, che fondamentalmente oltre al coronavirus esistono tantissimi altri virus. Vabbè, quello è chiaro. Non si parla più, no, ma sai, è bene sempre rimarcarlo, non si parla più, per esempio l'HIV e tanti altri virus che hanno una trasmissione sessuale, quindi la prima cosa è che in un rapporto occasionale sicuramente il profilattico. E vabbè, quello sa va a sandir. Ora, chiaro, per esempio, una mia amica che è la famosa prostituta della Salaria, che è in questo momento a casa, la grandissima Susanna, mi dice: ma io faccio i pompini scoperti. Pure. Allora, al di là del fatto che sia una prostituta, no, questo lasciamo perdere questo aspetto qua. Però dice, può avere qualche influenza col coronavirus? Cioè ci può essere qualche tipo di possibilità di trasmissione? Questo è interessante come cosa, perché non riguarda solamente le prostitute, che certamente hanno una mole di lavoro superiore rispetto a le persone normali. Allora, in questo caso, chiaramente, prima di tutto, per il mondo della prostituzione questo è un momento di estremo pericolo, non solo per chi la frequenta ma per la stessa prostituta. Quindi in questo momento tirare i remi in barca, rinunciare, tirare i remi in barca, questo sarebbe la cosa migliore, stare in casa. Questo tanto in messaggio, però la prostituta deve lavorare, come fa? Prostituta deve lavorare, se deve lavorare chiaramente sempre il profilattico. In questo momento però ci sono dei rischi altissimi, perché nella giornata che arriviamo con una prostituta a incontrare 10-15 persone comunque è un fattore di rischio altissimo. E il rapporto orale di per sé non porta, crea dei problemi o no? Il rapporto orale sia dell'uomo che della donna, dico. Allora, il rapporto orale da un punto di vista di trasmissione virale, non stiamo parlando del coronavirus. Del coronavirus. Sul coronavirus tecnicamente i dati su questo non ci sono, però è chiaramente è un pericoloso se parliamo del coronavirus, perché il coronavirus chiaramente si trasmette con i baci, quindi o che tu baci a due labbra in un senso o due labbra nell'altro senso. Cioè se una persona va con un'altra infettata e gli fa un pompino, diciamolo in maniera chiara, no? Perché poi sono cose che succedono alle persone normali, cioè metti una persona singola oppure una sposata, un'avventura con un'altra persona. Allora, è un virus respiratorio, ma in questo caso sappiamo importante anche il contatto, viene rimarcato l'importanza di utilizzare igienizzanti come la mucchina in tutte queste situazioni. Ma non è che uno può mettere la mucchina orale, sono d'accordo con te, però anche un contatto orale in questo caso è pericoloso. È pericoloso. Vabbè, e le posizioni invece? Le posizioni da tenere, ora su questo chiaramente sento sempre lì, chiaramente possiamo fare un po' una battuta, a lanciarla un pochino così, uscendo un pochino dalla scienza. In questo momento evitare la posizione a missionario e preferire una posizione dove la donna è prona e l'uomo sta dietro, in questo caso. Questo è preferibile, uomo. Questo è preferibile. Chiaramente qui c'è la scienza. No, vabbè, d'accordo, però c'è più buon senso, insomma. Sì. Qui c'è buon senso, insomma. Cioè, voglio dire, uno va con una persona che conosce poco, già ci sono dei rischi. E quando stai lì, devi anche stare con la testa a scegliere la posizione, cioè la distanza di un metro. Come si tiene? Innanzitutto, sembra meglio vedersi una serie su Amazon o su Netflix. La cosa migliore, lo ripeto, è stare a casa e stare tranquilli e buoni. Con la propria moglie, esatto. Propria moglie, la propria compagna. E chi non ce l'ha? Ha questo vantaggio. E chi non ce l'ha? Se ce l'ha, faccia da solo. Faccia da solo, compri Libero e si faccia due risate, ad esempio. Compra Libero, il quotidiano diretto. Ciao Nicola, a presto, ciao, abbracci, avanti. Saluti tutta, professore, ciao. Grazie. Comunque, ragazzi, è un quadro drammatico, cioè, gli esperti dicono, nostro grande esperto Nicola Mondaini sostiene che è meglio non fare un cazzo. è meglio finito. Non fare un cazzo, via. Ti rendi conto finito, o no? Finito, finito, non c'è più tempo. Pazzesco. Chiudere, italiani! Giovanni da Roma, fammi sentire ma questo. Ma che Giovanni da Roma, via, via. Fammi sentire questo. Siete prima. Finiti, miserabili. Giovanni, oggi avete chiamato anche troppo. Dai, domani, italiani! Ti dico solo una cosa. Abbiamo ti ancora dico solo una cosa. Dimmi. I caposcioni, questo che ha parlato fino adesso, hanno rovinato l'Italia. Cioè? Cioè praticamente alberghi vuoti, ristoranti vuoti, ospedali vuoti, pronti soccorsi vuoti, tassisti vuoti, camionisti vuoti. Vero, teste vero. Vuote, il paese teste è vuote anche, perché? Che chiamano qui, teste sì, vuote. Astrozzo, non capisci un cazzo. Vai, Giovanni, dimmi. Teste vuote. Dimmi, allora, ti dico. Salame. Costa... Lo so, 3 anni che ci stanno a fare il lavaggio del cervello, 3 anni, no? Che bisogna vaccinarci tutti perché avevamo risolto tutti i nostri problemi. Ma che c'entra? Certo, il vaccino non c'entra. Qui non c'è il vaccino per il coronavirus. Esatto, ma la gente si è terrorizzata. Perché muta, cambia, è nuovo questo. Capito? Questo virus è nuovo. Noi sono miliardi di anni che stiamo in mezzo ai virus. Sta scemi, ancora non avete capito? Questo qui. Ma sta sto coglione, vai a Wuhan allora da rompere le balle, vai in mezzo. Morti, sono 2000 morti, sono 60 miliardi dei cinesi. Mamma ma che cazzo sta vuota, testa vuota, fermi tutti, forse domani torna Gottardo, forse è lui la causa di tutto perché è tornato a trombare, è tornata quando è tornato a trombare Gottardo, ma che roba, che annunci da fare tutto finito, te lo ricordi che annunciò che era tornato a trombare, da ce quel momento in poi coronavirus, italiani, italiani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica, casa, lei lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. No, è possibilissimo.